a te, grubo i va, e uno. Riprendi Cla. Vabbè, io ho un'altra cosa, io ho la mia sedia grande d'ufficio, qua c'era sala radio, quindi scrivania, televisore, balavati. È adibita solo per questo. Oggi mi sono fatto un mal di schiena allucinante. Ho preso già una pastiglia stamattina, una colazione, adesso mi prendo una bustina stanotte a vedere se ce ne fa meglio, perché mi va a sembrare male. Vai Mari. Anche il tempo è grave, il tempo, adesso cambia. Io stamattina ho detto che il tempo ha cambiato, però io già sai, so per cercare il nome del perfetto, sono qua. È un muretto, e allora, avanti. Ma togliere una curiosità, Mari, ma tutte quelle bombole che voi recuperate, adesso vabbè so che non si possono, ma prima le avevate a Giuseppe, no? No, mio collega sa che le dà, se non mi sbaglio, c'è il collega che fa il giro, recupera parecchio, le dà cose, le dà, la cosa sta a fianco alla stana, va, ma per voi. Ah, a Torre li sta dando. Perché tu a ti servono? Guarda, a Torre ci dà 5 euro a bomba, tu ci dai 5,50 e faccio la sciarpa, bene tu va. Vai con la 5 euro a bomba. E se non vuoi 5 euro a base. Già le stiamo ritirando. Già passavamo prima noi, poi non so cosa Marasulti era ruzzesso, ma aveva fatto Giuseppe un periodo. E dice che doveva ritirarle lui. Ma non lo so, perché c'è un collega, c'è che qui non le lascia, so che lascia giù a stare, no? La conosciamo, la conosciamo. Perché teniamo bene, ogni giorno meno 2, 3, 4, meno di zigga sappiamo in giro. Dice che si va a freccare i buzzinosi, però non le lasciano fuori, le lasciano, capito? Non le consegnano. Perché tu le lasci, le pakistane non le vogliono neanche, capito? Già lo so, no, noi già le ritiriamo. Infatti venire una in bisotta, ti ho fatto male, non piglia mira a portarmela via. E noi ti candi biotti. Come vedo a noi non possiamo neanche ritirare, un po' che le ritiriamo, però lasciamo in giro un mese e pieno, che io già lo sai, io sono una zona a far giocare, a me meno roba c'è, chiuda intorno, se a me lo puoi fare, devo qui dalla tassina, capito? Ti blocchiamo, vieni, se prende e porta via. Qualche volta mi calco io il morto, sono un bel io lascio, capito? Tutto qua. Ma che ne servono per te? Già, me ne serviva, soprattutto liquid gas mi serviva. Io che ci affermo il giusto, buttan gas, cerezzi, tutto. Tutto le va, e ti fa le cose, no? C'è del calore, cinesi, pakistani, come la vuoi tu? Polacca, dimmi come la vuoi, io te la do. Più che altro la 10 liquid gas mi servivano, vabbè. Ehi, ce n'è troppo già. Solo che poi bisogna portarli sopra. Vediamo un po', va. Intanto nel paese, non faccio questo tipo, intanto. Le persone stanno matto, che ci devo scopare. Stai in mela. Ti vuoi volere una cosa, va, Vittore. Allora, andiamo bene. Io ne approfitto, adesso che sono entrato. Ne approfitto per salutarvi, che mi sociamelli. Ci sentiamo magari domani, se tutto va bene. Ok. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Bacchigio, se è rientrato. Ciao Marino e ciao Emanuele anche. Se non è entrata la badida. Andate. E ciao agli ascoltoni. Ciao a tutti e buona greca a tutti. Andate. Ciao a tutti. Io seguo la rotta, dai, che mi hanno già chiamato. Ciao Tore, un saluto, buon fine serata, buon tutto, buona domenica per domani. Ciao Marino, anche a te, ciao Antonio e chiunque sia sul 23, anche se c'è Battisio. Un saluto anche a lui, dai, chiudo anch'io e vado a cenare, così mi sdraio un pochino. Ciao ragazzi, a domani, vai Anto. Ciao Claudio, ciao anche a te Tore. E a tutti gli ascoltoni, ciao ciao, ciao, ci sentiamo alla prossima. Benissimo, ciao Claudio, per sentita domani se coincide con la chat, per farsi in casa. Se ne vera, avanti. Cappa. stavo dicendo che un periodo a me mi avevano detto che c'era un appalto Giuseppe Ciavetta per andare a ritirare queste bombe, ma non era vero. No, cioè, se anche non entrava, non entrava l'altro appalto, mi collegano con le portava l'altro appalto e si è ritirata. Non si vedeva una palla, non si vedeva una palla che non lo so. Io sto pensando però lì, se anche non entrava l'altro appalto e si è ritirata indietro l'altro appalto. Tutto qua. Perché ha pagato, ho capito adesso, ho capito. Quando sta arrivando? Sempre 9:10 la spalla? Anche 9:15 sta arrivando, veramente adesso. 9:15, abbastanza, ragazzi. Picca, pagata. E anda bene? Anda bene, sì, anda benissimo. Io 7:05 sto arrivando, sì. No, tu sei più di 9 sei qua. Adesso c'ho il LED ma sei più di 9. Vediamo se c'è ancora Bacchisio, perché anzi sta il cazzo, fa un po' il movimento delle gambe. Bacchisio, attenzione, gigante. No, allora io sto pensando che c'è un collega che lasciava le bombe l'altro fatto. E lui entrava e si è portato via, capito? Io sto pensando quello, che forse probabilmente sia quello di sicuramente è così. Dovevo fare non so come cosa. Adesso non si muone i bettini in Kiwi, insomma. Dove posso tenere? Autoparco. Non le voglio, anche il mio collega, non deve neanche prendere le bombe da intorno da qua, capito? Cioè le prendiamo, le faccio portare via perché dobbiamo lasciare in giro qui a Sudico. Mi dà vedo come va e ci scende giù il camello, ma il passaggio gli lascia giù a coso, a chi so, cioè lo lascia da, come si chiama, trovatore si chiama, poi da Tana, va. E che dà la ricchezza. Esatto, qualche volta lasciava pure la provincia di via Maddalena, non mi ricordo come si chiama poi via Maddalena. Ah, non ce n'è più via Maddalena, no, non ce n'è più. Attivamente a Torre Bombola. Torre Bombola. No, c'è presente, Antonio. E dove? Chi sono la Tana? Prima c'era quel baracchino, me. Sì, che abita Orsi, giusto, lui e di Orsi, non sono sbagliato. Ecco, lo vedete, c'è Sareggio, Ma non è sempre qua, Ce l'aveva a casa sua prima non aveva il baracchino. E adesso però lui è... adesso volevo dire, c'è qualcosa a Orsi, non so, era un sorte che intenzione, a Orsi. Cioè al 100%, Sì, così è. No, già lo sapevo che, però non mi ricordavo il nome del suo, cioè il bomba. Non lo ricordavo, capito? E allora, c'è a posto oggi, sì. Oggi almeno 200, consegnatemi. Allora ragazzi, 200, ui. Ho una druscia, beh. Come, se no? Ma come siete voi a controvuoto oppure sotto principale? Di Marugio è sempre. Ah, Marugio, esatto, sì, Marugio. Vabbè. Chi sei? Tu e tuo padre? Io, babbo, sai negozio. E io in giro. Un altro che collabora con noi. Tu non hai fatto in via... Tu non hai fatto in via Campanile, no? Via Marugio è che tu non hai fatto, no? Appa, eravamo lì. Poi vi siete spostati da Milano, giusto? Papà, vabbè, ce l'avevamo già da prima, da un po' di anni prima. Dove ci sono le ambulanze, o mi sbaglio? Sì. Ho capretto. Ho capretto, via. Che fame, vero, mi sbaglio. Che fame, molta fame. Così aumenta il segnale, ma... Prova, cosa non è? 2-3 prova. Per me c'è perfetto. Quanto sta arrivando? Quasi 9:18. Quindi aveva aumentato, così è. Sì. Guardami questo, il mio controllo, guardami questo segnale. Questo segnale, aspetta che mi sono visto. Sto cambiando. Guardami questo segnale qua. Adesso mi dai un altro controllo, aspetta, Vai, 1, 2, 3, prova. E guardami questo segnale qua. Sta mazza. Ma è più forte di... È più forte, no? Già lo grido, già. Ma di molto aumentato. Già aumentato, già. Già c'è la differenza. la tua differenza, andare e andare. Facci la differenza. Questo è il grande. Questa qua è una calzata pompa un pochino, certo. Quello lì cosa è? Ho capito che cosa è quello. L'avevo usato prima, poco fa, inconfondibile. Ma questa qui o come poco fa? Poi poco fa. Sono non vedi con la sotto, dai, tu sei con lo scaglio. Lo sto staccando. Ah, si stacca, eh? Lo scaglio. Già sto visto il mio scaglio, dai. Già ho capito io. Ecco, sì. Bene, bene, bene, bene. Questo è l'altro. Questo è l'altro. Questo è il minimo. C'ho la radio a 1. Adesso è a 2 la radio. E a voglia, a voglia. Ce n'è, ce n'è. È una bomba, Già, va bene, dai. Andare. Ok, ecco, dai, che ci vedo un po' che mi stanno sulle mani. Benvenuta, tanto per sentito, buona carica, saluto in casa, ci vediamo domani, grazie consigliere. Saluto anche tutti gli ascoltori e per me QRC. Appa, ciao Bacchi. Ma vai la ramma. Ciao Mari, ci risentiamo. Uff, mi sono sbagliato da uno all'altro. Sono preoccupato, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.